Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, sono le 16.07, Luca Tremolada al microfono. Oggi è giovedì, quindi sono stato raggiunto da Cristina Tagliabue, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo un gradito ospite, sembra segue le trasmissioni della RAI. Gradito ospite, oggi applauso. Così abbiamo con noi. Esatto, devo togliere questo tono orrendo. Ma insomma, oggi abbiamo con noi Lorella Zanardo. E chi è Lorella Zanardo? Facciamo sentire la scheda, poi ci dici qualcosa tu. Intanto la salutiamo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma se io mi permetto di dire, soltanto 1 milione di persone che hanno visto il suo documentario su internet, un blog che appena scrive un post ha centinaia di persone che commentano, di click. Siccome il giovedì parliamo che poi siamo tutte donne, in realtà come dire, è un blog un po' al femminile, per me è un momento di identità complicato il giovedì, cioè, però vabbè, siamo in un momento insomma di particolare trasformazione all'interno ovviamente del mondo di internet e dei blog, e questo è stata una grossa novità nel 2009, perché era un blog che parlava di tematiche molto specifiche e che al suo interno aveva un documentario fruibile gratuitamente, che è stato lanciato ovviamente da una trasmissione famosa, quella di Gad Lerner. Però che cosa è successo? Quando è stato appoggiato sulla rete questo documentario, che adesso diciamo il titolo, Il corpo delle donne. Oh, bravo, l'hai imparato. L'ho imparato. Appoggiato su internet sono successe cose. Esatto. E questo succedere delle cose, diciamo, è particolare della rete, ma in questo caso ci racconta come funzionano le dinamiche di internet e come insomma si riescono a lanciare dei messaggi attraverso la rete e addirittura farli arrivare in televisione. Sì, esatto. Non diciamo tutto, sentiamo. Dai, prima la storia di Lorella Zanardo. Lorella Zanardo è viaggiatrice. A 20 anni passa quasi un anno a Oxford, esperienza che le cambierà la vita. Si laurea in letterature straniere con una tesi sul teatro inglese, grande passione della vita. Passa poi un anno a Monaco di Baviera, dove incontrerà un grande amore greco, indimenticabile. Sceglie poi di frequentare un MBA, perché le pare un buon modo di girare il mondo. È tra le primissime donne ad entrare in Unilever Italia. Diventa direttrice marketing per un grande gruppo editoriale e lì fa il colpo di testa. Molla tutto e tutti e si trasferisce a Roma a fare l'attrice. Balla, recita, canta. 2 anni fantastici, un sabbatico pieno di energia. Inizia a studiare i cambiamenti sociali e personali anche partendo dalla sua esperienza personale. Rimolla tutto e parte per l'Iraq durante l'embargo. Gira il suo primo documentario, mossa dalla stessa intenzione che la porterà poi a girare Il corpo delle donne, la denuncia sociale. Arriva a Baghdad in autobus, diventa consulente per la comunità europea e parte subito per la Bulgaria. Riparte per Toronto, dove cura un progetto Diversity. Sostiene il Mondo No Global e ha partecipato al Forum di Caracas. Da anni pratica yoga e ritiene che sia proprio lo yoga ad averla condotta alla maternità. Ha 2 bambini ancora piccoli, Ale ed Eli, che sono la sua fonte di vita ed energia. La sua ultima avventura, il documentario Il corpo delle donne, le sta dando modo di esprimere la sua natura militante. Odia le trame di potere, ama stare in mezzo alla gente, parlare ed ascoltare. Rieccoci tornati in redazione, mi è venuto, no? In studio. Insomma, una vita travagliatissima ma molto ricca, che insomma poi ti ha condotto a questo atto di denuncia, vero Cristina? Com'è che lo possiamo definire? No, dai, non definiamolo un atto di denuncia. Io sarei curiosa di sentire da Lorella come definisce Il corpo delle donne, perché mi sembra un grandissimo progetto in realtà. Sì, denuncia può sembrare, io lo chiamo il mio atto d'amore per le donne. E ricordiamo due cose, cioè, sì. Ricordiamo che insomma Il corpo delle donne, per chi non conoscesse giustamente questo documento, è la donna vista dalla televisione, cioè sì, la donna nel piccolo schermo, no? E chiaramente è una donna rifatta, è una donna che s'atteggia, è una donna quasi molto spesso mezza nuda, insomma è una donna che noi uomini siamo abituati a vedere se siamo dei frequentatori, e che vi piace e che ci piace assolutamente, però Io ho visto anch'io il documentario che dura una mezz'ora, devo dire che colpisce, cioè nel momento in cui il taglio delle immagini, cioè è un po' come un effetto arancia meccanica, cioè essere bombardati dalle immagini che si atteggiano in un certo modo, così insomma, oltre che all'inizio fa piacere, perché, chiaramente, poi però fa riflettere, sì. Insomma. Devo dire che è proprio quanto tu dicevi, noi l'obiettivo è stato innalzare il livello di consapevolezza su come le donne vengono proposte dalla televisione italiana, e quindi è stato un lavoro di montaggio, in particolare focalizzandoci su 4 temi fondamentali che emergevano man mano che noi guardavamo la televisione. Devo dire che il fatto che abbia avuto un occhio così lucido è stato dovuto al fatto che io per anni non ho visto la televisione, quindi quando l'ho vista ho visto anche quello che probabilmente a un occhio assuefatto non arriva. E mi hanno colpito 4 temi, direi, principali. Uno, l'uso delle ragazze come corpo oggetto, ma di questo si era già parlato. L'altro, l'uso delle ragazze come quello che io ho chiamato grechine. Le grechine erano quelle decorazioni che facevano fare alle elementari, che suddividevano un tema dall'altro, no? E quindi ragazze a cui non si dà modo di parlare. Tipicamente le grechine sono le veline, no? Ragazze graziose, in ginocchio, di lato allo schermo, che non possono parlare, no? In ginocchio, anche questo è interessante. Quindi fanno da decorazione ai lati di greggio e iachetti. L'altra è, che non mi aspettavo, sono le umiliate, un qualcosa che c'è solo nella televisione nostra in Europa, e che sono ragazze che vengono umiliate durante la trasmissione. E anche questo non pensavo di trovarlo. In che senso umiliate? Umiliate, cioè? Ma abbiamo fatto una raccolta di immagini, chiaramente meno di mezz'ora non potevamo mettere tutto, non so, ci sono delle immagini dove c'è il presentatore che dà il microfono in testa a una ragazza, o che pure prende una ragazza abbastanza in modo inaspettato. Umiliate è una frase forte, ma, cioè nel senso umiliate, di fatto c'è un gioco pesante in certe trasmissioni. Mi ricordo la Flavia Vento, no? Che stava sotto il tavolo di cristallo. Quello è veramente il caso, mi sembrava umiliata. Sì. Sì, sì. Direi che quello è un caso forte di umiliazione, perché io provocatoriamente dico, quando ci chiamano nei dibattiti, una ragazza messa al posto delle gambe del tavolo, no? Quindi era accucciata. Noi dobbiamo pensare, chiaramente molti dicono sì, però è un gioco, non è la vita, non è la verità. Ecco, dobbiamo pensare che la televisione crea dei modelli. O peggio ancora, crea della vita delle fantasie. Delle o fantasie, ancora, certo. Perché poi... E noi qui, al di là dello schermo, cosa proviamo? In televisione, in quel momento, io vedevo una mia simile a 4 zampe sotto un tavolo. Ecco, quindi il documentario è stato fatto, ripeto, sì, è una denuncia, come tu dicevi, ma di base io... Mentre vedevo, abbiamo visto 400 ore di intrattenimento TV per selezionare, cioè, questa siete mezz'ora. Ci siamo fatti del male, però. Ci siamo fatti del male. È stata tosta come operazione. Sì, e il fine era proprio non tanto giudicare, infatti nel il documentario è inframmezzato da domande, perché volevo creare un percorso delle donne e degli uomini per chiederci insieme perché accade tutto questo. Ci piace veramente? Piace a me o piace a te, per esempio, che sei uomo, vedere una ragazza al posto delle gambe del tavolo? O per esempio l'immagine finale del documentario, c'è una ragazza che è appesa come un prosciutto per le braccia, che viene denudata, gli vengono tolti i pantaloni, ha un perizoma, viene unta di grasso come se fosse un prosciutto ed è appesa insieme a dei prosciutti, e gli viene marchiato il sedere così come si fa col prosciutto, no? Ecco, io mi sono chiesta, c'è stato, devo dire che quando ho visto questa immagine io... Hai detto devo fare un documentario. Sì, lì è scattato. Cioè, io mi sono sentita tirata... Sì, okay. Perché mi sono sentita, prima di tutto, la parola giusta è addoloratissima. Cioè c'è stato un coinvolgimento proprio di dolore. Ma poi io questo documentario l'ho fatto in particolare... per tutte le donne e per gli uomini, ma per le ragazze. Secondo me dobbiamo essere consapevoli che mandando in onda queste immagini si creano dei modelli, no? Quindi l'obiettivo era: facciamo una discussione comune, parliamo, abbiamo veramente voglia di vedere una donna appesa come un prosciutto e marchiata sul sedere? È una domanda scomoda, no? Vedo che hai trovato una risposta, nel senso che adesso però raccontiamo cosa è successo. Cioè è successo che insomma ti sei posto questa domanda, hai realizzato questo documentario insieme a Marco Malfi, tra l'altro, che è una persona che io conosco da tempo, nel senso un professionista del mondo dell'advertising, che a un certo punto, come Lorella, ha deciso: mi prendo uno stop, no? Nella mia vita, nel senso mi fermo e ricomincio a fare delle cose nelle quali credo, no? Perché forse anche un po' il tourbillon della nostra vita, no? Del lavorare giorno dopo giorno, alla fine comunque ci fa perdere un po' i punti di riferimento, quindi sempre tra l'altro più... è curiosa una cosa, Cristina, che anche con Videocracy, cioè operazione discutibile, più volte insomma oggetto di polemiche, però persone stanno fuori dall'Italia, guardano l'Italia, realizzano dei film sull'Italia, realizzano dei contributi audio e video, e insomma questa visione un po' dall'esterno ci colpisce. Questo, chiudiamo la parentesi. Sì. Questo è un punto. No, perdonami Lorella, prego. È un punto interessante, perché vi devo dire che da quando poi abbiamo aperto il blog, in seguito a dopo aver fatto il documentario, che è ilcorpodellecorpodellodonne.com, ci sono state delle sorprese. Uno, che il blog era seguito da 40% di uomini. L'altro, che è seguito da molti giovanissimi, intendo 16-17 anni, che non ce l'aspettavamo. Ma l'altro è quello che dicevi tu ora. Cioè ci seguono moltissimi italiani all'estero che lavorano nelle università, che sono professionisti, uomini e donne, e che scrivono: meno male che c'è questo documentario. Da quando sono in Svezia, da quando sono in Danimarca, in Inghilterra, ho capito che dalle altre parti d'Europa la televisione non è così. Soffro moltissimo di vedere il mio paese con questo tipo di televisione svilente. Però e c'è qualcuno che te l'ha criticato. Cioè internet, quando tu ti esponi su internet, il bello della rete, cioè noi poi siamo una trasmissione che nasce con una forte legame con questo mondo, è che sei nudo sostanzialmente. Però ecco, che cosa è successo? Anche perché è facile sorridere a un documentario che si intitola Il corpo delle donne, così come è facile poi attaccarti, darti della vetero, di una posizione insomma antiche. Sì, ma devo dire che noi abbiamo avuto un numero enorme di consensi, quasi che mi dispiaceva, nel senso che credo che una sana critica porti poi a sviscerare anche i problemi, no? Anzi, devo... anche da parte, le critiche che noi ci aspettavamo erano più che altro da parte di chi lavora nella televisione e chi viene mostrato in queste immagini. In queste immagini ci sono mostrati i personaggi che lavorano in televisione, no? Anche se questo non è un documentario contro le donne, ripeto, ma è per le donne, ma è un documentario che vuole far riflettere sull'uso della donna in televisione. Anche da parte di queste donne, che sono comunque citate nel documentario, io ricordo appunto Alba Parietti, che era poi con me in una trasmissione alla 7, piuttosto che Simona Ventura, che so che ha visto il documentario, non c'è stata una critica, c'è stato quasi un difendere la loro posizione. Hanno quasi riconosciuto che è vero, no? E secondo me in un qualche modo, e questa è una mia interpretazione, anche loro condividono il fatto che c'è un uso sbagliato e poco dignitoso, ma si giustificavano dicendo: queste donne, questa è la legge dello spettacolo, noi cosa possiamo fare? Queste sono le regole del gioco. Le regole del gioco. In trasmissione disse Parietti, che tra l'altro Parietti, che è una mia coetanea e che stimo peraltro, disse una cosa interessante. Disse: ma vede, lei fa questo lavoro, sono contenta, però io sono una donna di spettacolo e ho diritto ad invecchiare piacendomi, disse, no? E io le proposi: guardi, sono assolutamente d'accordo con lei. Io anch'io rivendico il diritto di invecchiare piacendomi. Forse vorrei portare avanti un discorso che è: possiamo avere diritto di invecchiare senza ricorrere alla chirurgia estetica? Non demonizzando la chirurgia estetica, ma vorrei che restasse una scelta, non un obbligo. Per il fatto che in televisione i volti delle donne dai 40 anni in su scompaiono, sembra un obbligo il dover restare perennemente ventenne tutta la vita, no? Quindi la proposta è: si può invecchiare con la propria faccia? Oppure con il proprio corpo, immagino, anche perché insomma alla fine, se guardi in televisione, tutto sommato il modello da 50 anni forse è lo stesso, un pochino evoluto. Non so, quest'anno è stato il 50° compleanno anche di Barbie, no? È un discorso di stereotipi, come se bisognasse sempre comunque assomigliare a qualcosa che è perfetto, che è stato definito, che è quello il modello di perfezione, non è possibile essere altro. No? Da questo punto di vista anche il documentario appunto di Roella Razzanardo, ma anche, come dire, il blog puntella le donne su questo tema. Ci sono addirittura delle rubriche all'interno del blog che approfondiscono di volta in volta. Allora, io volevo ricordare il numero verde 824 0024 e gli sms 349 238 6666, perché sta già arrivando qualche cosa e anche qualche critica naturalmente, tra cui la sottolineatura, insomma, parlare del mondo della televisione va bene, però c'è anche un problema delle donne in Afghanistan. Cioè, lo traduco e do un senso, cioè perché ci occupiamo delle donne di spettacolo, delle donne ricche. Tra l'altro, anche quando abbiamo fatto delle altre trasmissioni discutendo sulle quote rosa, sui manager e così, c'è sempre qualcuno che dice sì, ok, va benissimo la difesa a fortino delle donne che in un qualche modo sono arrivate e che si scontrano quindi con una mentalità, però è del tema, e su questo io sono anche in parte d'accordo. Che a me preoccupa di più sono le badanti, delle donne di servizio, gli immigrati. Allora lì è chiaro che se sei donna e sei in una situazione del genere, sei in una situazione di debolezza maggiore rispetto a una persona che decide scientemente di andare in televisione e fare i balletti. Sì. No, da una parte mi prendo io la responsabilità, scusami Lorella, nel senso che ovviamente all'interno di queste giornate, no, diciamo questi giovedì di Nova 24, abbiamo invitato tante professioniste del mondo, come dire, delle aziende, perché in realtà siamo in una radio che è del gruppo del Sole 24 Ore, quindi in qualche modo parliamo di mondi professionali e persone che sono inserite all'interno di mondi professionali. Quindi se sono arrivate, non so, la mamma e la figlia, le nonino, tutte le famiglie produttrici di grapp, poi dopo sono arrivate le signore dei CDA, e oggi parliamo di professioniste del mondo dei media e quindi di chi anche, come dire, in qualche modo, tra l'altro fa un lavoro quasi sociale, nel senso Cristina, che... Però il tema è anche, cioè, non si sta perdendo di vista anche un altro aspetto. Non chiaramente tu, però cioè nella discussione importante che si è aperta non solo in questa trasmissione naturalmente, ma anche in tutto il paese, cioè Zanardo è un esempio, di fatto in tutta Italia si stanno muovendo, aggregando donne e così, visto un po' dall'alto si sente un po' la mancanza di una visione organica, cioè la donna a 360 gradi, cioè a qualsiasi altezza. Sì, ecco, su questo io ho una visione molto chiara. Prima di tutto bisogna sfornare il campo, liberare il campo da un malinteso enorme. Questo non è un documentario sulle soubrette, di cui devo dire mi interessa pochissimo, ma con tutto il rispetto, ma nel senso, insomma, sono persone fortunate che guadagnano bene. Questo è un documentario sull'uso del corpo della donna in televisione. Se ci sono delle soubrette che appaiono e danno in televisione un'immagine fortemente umiliante di noi, non è tanto importante, mi permetto di dire, che quella donna lo fa, perché di solito è anche maggiorenne, ma è il fatto che crea dei modelli. Quindi noi ci stiamo occupando di un tema che interessa milioni di persone e in particolare di ragazze, per il fatto che in televisione ci siano delle ragazze giovanissime che vengono usate come corpo oggetto. A casa ci sono milioni di ragazze che seguono queste trasmissioni e per cui queste ragazze in televisione diventano dei modelli da seguire. Quindi, per rispondere alla persona che ha telefonato, vorrei rassicurarla sul fatto che noi ci occupiamo solo di questo, non tanto, diciamo, delle soubrette, ma dei modelli che creano queste soubrette. Ecco, proprio su questo tema, non so se sei d'accordo, Cristina, di andare a cercare un po' anche di capire che cosa succede quando delle donne si, tra l'altro ne sai qualcosa anche tu, quando le donne si incontrano sulla rete, cioè cosa nasce, e diamo anche qualche riferimento concreto. Ma non ho capito bene la domanda, forse. No, nel senso di dire, cioè, passo di fare, provare a capire, dopo questa denuncia così, il progetto, io volevo introdurre solo il progetto di Zanardo su quello che sta facendo su internet. Sì, con il blog abbiamo voluto iniziare ad avere un luogo, una piazza dove discutere delle tematiche che ci riguardano. Riguardano noi donne, ma come dicevo prima, è interessante che molti uomini intervengono in questo dibattito. Allora, la prima cosa interessante è che dà... Ecco, hai 40 secondi, sì. Poi dobbiamo, per cui diamo un, sì. Diciamo un sapore dell'iniziativa, sì. E poi ci torniamo. Allora, discussioni ampie dove noi parliamo di problemi inerenti all'universo femminile, però dove c'è l'intervento degli uomini, ma la grande conquista secondo me è l'intergenerazionalità. Cioè in rete disquisisco io con una ventenne, con una settantenne, cosa dove nella società è difficile entrare in contatto con diverse generazioni, e questa è una cosa molto molto proficua. C'è un indirizzo internet? www.ilcorpodelledonne.com. Ok, l'obiettivo? Dai, io sono un po' praticone, certo, cioè, no, la anch'io. Missione proprio da videogioco, la missione qual è il livello è innalzare da il livello di consapevolezza delle donne su questo tema, essere rese in questo modo autorevoli, perché finché sono sotto il tavolo è difficile che io sia poi vissuta come autorevole, e una volta ripresa la nostra autorevolezza occuparci di quello che dicevi prima, di cose importanti. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada, 16:33, il corpo delle donne, sono in compagnia il corpo delle donne, il nome del documentario, non sono impazzito, perché detta così fa un po' strano, sono in compagnia di Cristina Tagliabue e Lorella Zanardo, do il numero di telefono 824 00 24, 349 238 6666, do una lettura veloce agli sms, insomma c'è qualche accusa di integralismo nelle parole, per le parole della Zanardo. Ma insomma, integralismo in realtà, no? Il tema delle donne, dell'immagine delle donne è molto più largo di quanto si possa immaginare, perché a seconda di quanto e come veniamo percepite all'interno del mondo dei media, poi tutto ciò, questo si ripercuote nelle vite nostre, no? Certo. E infatti Lorella ci stava dicendo mentre stava andando la pubblicità proprio questo discorso: sempre più donne nel mondo delle aziende le scrivono, no? Proprio all'interno del blog, dicendo: questo è un problema anche mio che sono al top. Sì, io vorrei ricordare, appunto, noi abbiamo fatto questo documentario, ma io di professione non sono documentarista, io ho fatto la donna d'azienda, diciamo, per molti anni, sono stata consulente per la Comunità Europea, sicuramente questo tema dell'audiovisivo mi interessa e l'ho anche seguito come passione. Sento l'obbligo di occuparmi di questo, perché finché l'immagine della donna in Italia sarà così svilita, noi non abbiamo l'autorevolezza di occuparci di altro. Quindi a volte io ne sento fortemente l'umiliazione di dovermi occupare, scusate, giorno e notte di sederi e cosce. Non è esattamente quello che mi interessa di più. Quindi, per tornare allo stimolo interessante dell'ascoltatore che scriveva prima, non ci sono problemi forse più importanti? Certamente, io di quello che mi voglio occupare nella vita. Direi che se però c'è una mia simile a quattro zampe in televisione che fa, come dire, proselitismo a casa per le ragazze che lo guardano, finché c'è quello è difficile che io mi possa occupare di altro, perché non ci mettono in grado di. Quindi è molto importante, no? Quindi, che noi ci si occupi di questo oggi. Non solo, no, Lorella, dicevi che poi in realtà se uno alla sera guarda in televisione o comunque sui giornali, no, una donna che sta in ginocchio, il giorno dopo comunque ha a che fare con una sua collega in azienda, cioè lo stereotipo in qualche modo in testa ti rimane. Lo stereotipo è fortissimo. Farò un esempio. Posso chiedervi anche una cosa a tutte e due, nel senso che poi Cristina ha scritto un libro sulla, che io di racconto sulla chirurgia, cioè che come siete trattati nel momento in cui andate in tele, perché su internet a me piace pensare che siamo abbastanza tutti uguali, la rete è esattamente maschilista e femminista a seconda di chi la usa, però è sicuramente un mezzo più neutro, ha meno regole scritte, siamo un po' più liberi nel bene e nel male, perché si scrivono anche delle nefandezze su internet, giustamente, ed è anche il suo bello. Nel momento in cui andate in televisione, che succede? Ma nel momento in cui si va in televisione, questo è un tema che suscita moltissimo interesse e moltissimi dibattiti. Succede che chi a casa, noi abbiamo avuto quelle volte che ci hanno invitato a parlare del corpo delle donne e a mostrare parte del nostro documentario, un interesse altissimo. Quei giorni il nostro sito è esploso, perché c'è un gran bisogno da parte delle donne e degli uomini di parlare di questo tema, tanto è vero che io non sono d'accordo quando si parla del silenzio delle donne italiane. C'è una giornalista che ha detto: le donne italiane non sono zitte, sono zittite, no? E mi sembrava bello. Quindi grande interesse. C'è anche della critica da parte di chi questa televisione la fa. Io ricordo per esempio in trasmissione con me da Lerner c'era un autore televisivo che ci disse che noi siamo come dei missionari e che vogliamo cambiare la realtà. E dicevano appunto che gli autori televisivi danno alla gente quello che la gente vuole. Io ero d'accordo solamente nel dire una cosa. Un altro dei luoghi comuni, le donne sono maggiorenne, le donne che scelgono di andare in televisione. Sì, sono però maggiorenne. Io voglio solo dire che è vero che la gente guarda queste trasmissioni. Le persone che guardano queste trasmissioni sono anche, hanno il gusto formato su 25 anni di questa trasmissione. Certo. Io rivendico il ruolo educativo dei mezzi di informazione. Peraltro Luca, a me è capitato appunto di andare a promuovere il libro in televisione e parlare con delle attrici che sono state selezionate per casting e gli autori televisivi per primi, di solito mi spiace sia uomini sia donne alla fine, dicevano per andare in televisione deve avere comunque il corpo fatto in una certa maniera, quindi il naso aquilino non va bene, sì, ti devi fare la plastica, sì, il seno ce l'hai, dipende, troppo piccolo, dipende dalla trasmissione però dai. Diciamo che forse mi è capitato di andare nelle trasmissioni più popolari, però insomma me ne sono fatte tante sulla Rai, su Mediaset, adesso andrò alla 7 domani, ma insomma ho parlato con tante attrici, tra l'altro domani c'è lo spettacolo teatrale, non per fare pubblicità del mio libro al Teatro I, quindi cioè, come dire, è un tema molto molto sentito questo, però come dire, se alla fine la selezione avviene semplicemente per appunto rispondenza a quello che è un bollino che viene dato da 25 anni come diceva Lorella o chissà magari di più, cioè è molto complesso. Io personalmente faccio sempre la parte della brutta secchiona, non sapevo di essere brutta finché non sono andata in televisione, io davvero, per me è stato uno shampoo. Ma questo secondo me è molto importante ricordare una ricerca del Censis, quindi non siamo noi a dirlo, ma il Censis, che ha fatto una bella ricerca che si trova in internet, tra l'altro Donne Media in Europa, dove il Censis viene in nostro aiuto, mia e di Cristina, e dice che in Italia, l'Italia è l'unico paese in Europa, un pochino seguito dalla Grecia, dove la donna in televisione viene presentata in modo quasi univoco, cioè c'è la donna corpo oggetto bella, persino a chi fa informazione viene richiesto di essere bella, laddove, dice il Censis, quindi non parole nostre, negli altri paesi europei, in Gran Bretagna per esempio, nei paesi nordici, c'è sì la presenza della showgirl, della soubrette, però questa è insieme alla proposizione di modelli di donna che rappresentano la società. L'Italia nella società non è fatta solo da veline. Come mai in televisione noi ci chiediamo si vedono solo donne soubrette? Quindi chiediamo solamente che la televisione ci rappresenti di più e si chiamino anche donne perché hanno delle cose da dire. Come succede in Italia nella società, quindi semplicemente sì, io l'unica cosa che ho da dire, ma poi volevo passare alla seconda ospite, è che forse non è ma lo butto lì, cioè non è che interessarci di quello che avviene in televisione è un po', cioè guardiamo alla rete, cioè guardiamo a lavorare sulla rete, perché poi la televisione, non dico che è una partita persa, ma è come provare a cambiare certi uomini, no? Cioè io lo so benissimo, a me cioè su certe cose non mi cambia nessuno, né anche le bombe atomiche. È vero, e ti do ragione. Per cui è una battaglia complessa andare contro le leggi dello spettacolo della televisione. È complessa, e devo dire che porterei l'acqua al mio mulino dicendo stiamo in rete perché il nostro documentario in rete è stato visto da 1 milione di persone. Se sono completamente onesta, quindi dicendo anche qualcosa in cui tu mi dicevi prima delle critiche, in cui io per prima dico forse in questo non siamo riusciti, che attraverso la rete noi arriviamo a un certo target di persone. E che nel nostro caso sono persone più giovani, non solo giovanissime, abbiamo anche molte persone adulte che ci seguono, ma diciamo principalmente di cultura medio-medio-elevata, mentre chi guarda tanta televisione, quindi il mio target invece personale oggi è arrivare col mio stimolo, con la mia provocazione a chi guarda tanta TV. Ricordiamo che l'80% delle persone che guardano la televisione ha la televisione come unico strumento di informazione. Certo. Ecco, io avrei voglia di arrivare anche a loro. Certo. Presentiamo Sule Frontani, siamo di corsa, però anche quella è una storia molto bella questa. Sì, in effetti è un'imprenditrice che vabbè, è tedesca, è arrivata in Italia dopo la caduta del muro di Berlino, anzi un anno prima della caduta del muro di Berlino, per amore, abita a Genova e ha aperto una sorta di fondazione per, non so come dirlo, la risoluzione dei desideri, si chiama Make a Wish. Make a Wish. Fontana in collegamento? Sì, sono in collegamento. Buongiorno, buon pomeriggio. Anzi, ci può raccontare Make-A-Wish un po' cosa fate? Anche perché è una bella iniziativa, insomma, la vogliamo raccontare, ecco. Sì, innanzitutto Make-A-Wish Italia fa parte di una fondazione internazionale molto molto grande e molto conosciuta all'estero. Noi siamo la filiata italiana di Make-A-Wish Foundation International, che comunque ha 30 affiliate in tutto il mondo e la cui missione è esaudire i desideri di bambini che hanno gravi malattie, che hanno malattie che possono mettere a rischio la loro vita. In Italia non esisteva, mio marito e io l'abbiamo fondata nel 2004, e ad oggi lavoriamo a Genova, lavoriamo a Milano e anche a Roma, ad oggi abbiamo esaudito ben 350 desideri di bambini in queste condizioni. Siamo sotto Natale, Luca, e quindi insomma pensavo che sentire una persona di questo tipo potesse essere... Com'è, no? Che funziona esattamente? Funziona che i bambini che hanno certe patologie ci contattano i loro genitori, ci contattano i medici e ci esprimono un desiderio, noi li incontriamo, li ascoltiamo, stiamo con loro, cerchiamo di capire loro e ci esprimono il loro desiderio del cuore e noi facciamo poi di tutto. C'è un sito internet, lo ricordiamo? Sì, c'è un sito internet che è www.makeawish.it. Che noi scriveremo sul Twitter di Novalab, poi è sempre complicato, adesso diciamo che andare, però insomma se vi collegate anche oltre che sul Twitter di Novalab metteremo sia il blog del Corpo delle Donne che anche Make-A-Wish. Novalab 24. Novalab 24. YouTube, dopo svariati tentativi, prova la strada a pagamento. Google sta infatti valutando l'ipotesi di un abbonamento mensile per i filmati. Per il vicepresidente di Google, David Eun, i progetti dell'azienda per YouTube si scontrano con il modello di ricavi attuali, che prevede solo inserzioni pubblicitarie. Due le possibili soluzioni: abbonamenti mensili alla stregua di quanto avviene per la TV a pagamento via internet, o far pagare per il noleggio di film, erogati sempre via internet. Scienziati contro Babbo Natale. Il professor Nathan Grills della Monash University di Melbourne, in Australia, e l'illustratore Brendan Halliday, autori di un articolo apparso sul British Medical Journal, elencano tutti i comportamenti poco raccomandabili di cui Babbo Natale sarebbe responsabile. Obeso, troppo dedito all'alcol, irrispettoso del codice della strada. Secondo i due studiosi, Babbo Natale rischia, con il suo stile di vita irregolare, di rappresentare un cattivo modello per i bambini. Sarebbe meglio, sostengono, che rinunciasse all'alcol e camminasse di più per fare un po' di esercizio fisico. Walt Disney innova i fumetti e li traghetta nell'era digitale. Il progetto si chiama Disney DigiComics. L'intento è rendere l'esperienza di fruizione dei comics su nuovi supporti di uso comune, quali cellulari, smartphone, iPod e iPhone, console per videogame, eccetera. Le oltre 50.000 storie dell'archivio Disney verranno offerte via via ai lettori secondo modalità di lettura vignetta per vignetta, integrandole al massimo con contenuti audio, lo sbattere di una porta, un vaso che cade, eccetera, per intaccare il meno possibile l'esperienza unica e originaria di lettura del fumetto. Telecom Italia ha presentato Cubo Vision, dispositivo TV a banda larga che consente di vedere il digitale terrestre e la TV via web. Fibra e antenna. Sostanzialmente un unico device per internet e televisione di flusso. Un altro prodotto della convergenza. Ma che forma avrà il telecomando? Rieccoci, sono le 16:48, pochissimi minuti, ma insomma io volevo parlare di Wind Conference, cioè capire anche questa Wind Conference. Ci puoi spiegare che cos'è? Sì, Wind Conference è una conferenza mondiale di donne professioniste, dirigenti, manager a livello internazionale, la cui presidente è Kristin Engvig, norvegese, e io faccio parte del consiglio di amministrazione. È stata fondata 12 anni fa, ci troviamo una volta all'anno in una diversa capitale europea a discutere di temi rilevanti per noi, e in particolare di conciliazione tra vita privata e vita di lavoro. Quindi tutte donne con incarichi, diciamo, importanti, tra virgolette, ma che si rendono conto che è importante avere un equilibrio. Adesso faccio la domanda da maschietto, ma la missione qual è? Cioè, sono sempre, perché quando sento la chiacchiera sì, fantastico, però... La missione è proprio questa armonia tra le due parti, perché per noi donne che siamo state tra le prime a entrare in azienda... questo fatto ha voluto dire una fatica mostruosa che ha portato a una cancellazione della vita privata, quindi argomenti duri, tosti. Vita privata ha voluto dire non vita affettiva, niente figli, che uno può decidere di fare più o meno, però se sei obbligato è diverso questa che fare una puntata, scelta. Comunque, ecco, si parla di tutti questi temi, si parla anche di come far sì che le nostre, di arricchire l'azienda dove lavoriamo anche di tutte le nostre potenzialità senza uniformarci a un modello unico maschile, no? Quindi interessante. Ma quindi questa cosa qui funziona in tutti i paesi, cioè non è solo italiana, perché è internazionale? No, questa è una rete internazionale, non è italiana, la presidente norvegese, io ne faccio parte perché ho vissuto molti anni all'estero, quindi mi interessava affrontare questo discorso. Questa, diciamo, le donne d'azienda si sono comunque avvicinate anche al nostro discorso del corpo non delle donne. Non è un dopo lavoro, adesso non è essere cattivi, però non sembra un po' un dopo lavoro. E tanto è vero che gli sponsor di questo network quest'anno sono stati IBM, Hewlett Packard, quindi sponsor che hanno interesse a far sì di assumere donne, ma che si trovino anche in un contesto che sia women friendly. Che IBM vuole assumere, no, però possono essere attenti. Però sono molto attenti, sì? Sono molto attenti, perché chiaramente una donna che sta bene nell'ambiente di lavoro è una donna anche che produce di più e che dà anche più creatività. Quindi è un discorso molto importante. Anche le aziende, rispetto a quando sono entrata io anni fa in azienda, le aziende si sono rese conto che una donna messa in condizione di lavorare al meglio è anche molto più efficace, no? Quindi dell'uomo è... no, beh, io sono molto più efficace in assoluto cioè, visto che sono puntata, stata guardata, sono stato bravo con fino un attimo adesso. Di aggressività no più buono in assoluto, chiaramente no la cosa invece che a me è prima sottolineare, ma la dico in due secondi, insomma, attenzione, internet io sarò un fanatico, però fa proprio questo, cioè non è italiano, è internazionale, per cui mi consente di creare anche dei link esterni che possono sortire degli effetti. Ho dato un cazzotto al microfono ed è un segnale che il nostro tempo è finito. Noi ci sentiamo domani alle 16. Ringrazio Lorella Zanardo e ringrazio Cristina Tagliabue. Ciao, grazie a voi. Nova Lab 24.